in onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla parte tecnica Simone. Une. Buonasera, ben ritrovati simpatici ascoltatori di Piazza Alta, siamo ancora noi con una nuova puntata di questo programma di aneddoti, personaggi e storie di Foiano. Oh, buonasera a tutti, che bello partire così belli sprint senza accorgersi quasi che la puntata è iniziata. Simpatici amici, buonasera e benvenuti a questa 23esima puntata di Piazza Alta. Stasera puntata schiumeggiante. Ma aspetta a dirlo, aspetta. Io nel senso, vediamo, sì, vediamo. Sono se sempre sarà precoce nelle mie cose. E ma non lo dire così. Si è spento subito. Perché però, no, precoce, lo sbalordimento nei tuoi occhi, quindi dice che nessuno se l'aspettava. Abbiamo già l'ospite in studio che non saluta per ora, per sì, contratto, non può salutare. No, infatti, e non gli facciamo neanche per cui, molto, però, neanche per cui, ciao. Per cui musica, primo brano, la new entry. C'è gente talmente povera che non ha nient'altro che il denaro e pensa che la statura morale di una persona equivale al suo capitale. E c'è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il naso perché non sa cosa vuole. Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cambiare. C'è gente che è così comica, ma si prende un po' troppo sul serio e non troverà mai una verità, nemmeno se gliela metteranno in mano. E c'è gente che ha una nella testa è una scala Pioli nel cuore. C'è chi non ha più curiosità e piano piano cerca di invecchiare. Quando comincerai a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cambiare. Quando comincerai a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cantare. Quando comincerai a vedere il mondo in un modo diverso, comincerà a cambiare. Quando comincerà a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cantare. E la gente che non si sorprende, la gente che non riesce a sorprenderci più. E la gente che non si sorprende, la gente che non riesce a sorprenderci più. C'è gente che è così immobile, dei franci frutti del destino, e non troverà mai una novità, nemmeno se gli passerà vicino. E c'è gente che pensa di aver sbagliato tutto nella vita e pensa solo al passato, e non comprende che si può rinascere ogni giorno se fai la cosa giusta adesso. Quando comincerai a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cambiare. Quando comincerai a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cantare. Quando comincerai a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cambiare. Quando comincerai a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà a cantare. La gente che non si sorprende, gente che non riesce a sorprenderci più. È la gente che non si sorprende, la gente che non riesce a sorprenderci più. Sai, io sono Highlander, sono nato nel 1492. Ed ecco la voce che si è. Questo era un fuori onda. Molti di voi l'avranno già riconosciuto, ma ancora non svegliamo il segreto. È successo. Nel frattempo siamo partiti con la new hit di questa sera, ovvero Salva Gente, il nuovo singolo dei Marta su Tubi con la partecipazione di Franco Battiato. Il singolo è uscito il 2 maggio e anticipa l'uscita della raccolta proprio dei Marta sui Tubi. Salva Gente, ringrazio Simone che mi ha messo Marta sui Tubi, ma non mi ascolta. Continuatelo Battiato. Continua, Marta continua a preoccuparci perché sempre su quei tubi. Lo so. Beh, ma ti preoccupa più Marta o i tubi, Marzi? Perché Non lo so. Io sono per il cattolico, lo sai, quindi non lo so. Ci devo pensare ancora. Ma come? Allora, intanto avete già sentito la voce del nostro ospite, sì, lo presentiamo. Ma tanto. Sì, a questo punto ormai fuori programma c'è stato. Quindi diamo il benvenuto a Giorgio Gervasi in questa sera nelle vesti di narratore. Puoi dire ciao, ora lo puoi dire. Buonasera. Aspettavo il permesso. Io sono una persona educata, aspettavo il permesso. Sì, parleremo con lui di uno dei momenti più alti della storia del paese di Foiano, della storia dei Lumacons, di cui è stato protagonista, ma lo faremo dopo. Ora prima ricordiamo un po' di cose. Sara, a te gli aspetti istituzionali della trasmissione. Va bene, tipo da dove ci stanno ascoltando tutti i nostri fans che sono cresciuti, penso, in maniera esponenziale. Va bene, allora, come ci ascoltano? Intanto sulla nostra frequenza FM 101.2. Oppure in streaming, Marzi? Banale. Ormai la frequenza radio FM ormai è passata di là. Tutti, appunto. E oppure allora? Allora, oppure potrebbero seguirci visitando il sito www.radiof.it. Tutti i punti? Sì, sì, certo. E scaricare nel sito, possono anche scaricare la app. Apple e Android. E down. Niente, è totalmente fuori. E come si chiama la app? Sono solamente tre puntate e ancora non la capisco. Radio F. Bravo. Evviva, ce l'abbiamo fatta. E poi ricordiamo anche la nostra pagina Facebook. Da domani potranno riascoltare questa puntata che ancora dobbiamo fare. E la potranno riascoltare. L'abbiamo messa con il nostro Abbiamo già ospite. Messo la foto Fantastico. Con il nostro ospite. Come vedrete già perché dalla noi foto. Noi ci mettiamo la faccia. Questo è un modo di dire che ormai lo fanno tutti. Lo so, noi sicuramente no, a parte a livello. Ma anche un noto sportivo sta continuando a dire che ci mette la faccia. Ma andiamo oltre. Dipende poi. L'unico che aveva la deliziosa sarà in braccio. Certo, senza, noi non ci saremmo mai permessi. Per noi rimane il quesito il tipo di faccia, però per entrare nel vivo della trasmissione direi a questo punto di mandare il meteo. Non c'era il giornale radio. No, per farti col infatti prima c'è il giornale radio. C'è il giornale radio. Abbiamo un po' già annunciato, però sarà te che sei la parte stasera proprio come tutte le sere così, tutte le trasmissioni. Ok, sì, annunciamo proprio in modo istituzionale l'argomento di questa sera. Allora, tu Enzino prima dicevi un momento importante per la storia di Foiano, un momento musicale e direi anche di aggregazione. Ah, senza dubbio, poi ce lo racconterà meglio Giorgio, ma sì, sicuramente. Perché parliamo di un gruppo giovane di Foiano che nasce negli anni 70, vedo che ex giovani, vabbè. All'epoca giovani. All'epoca erano giovani. Puoi parlare, Giorgio, se vuoi dire. Sì. No, mi piace ascoltare. Beh, la radio è un po' per questa. E quindi stasera ripercorreremo la storia dei Lumacons insieme a Giorgio Gervasi. Sei pronto, Giorgio? Con piacere. Ah, quando che vuoi. Darwin avait raison, je ne suis plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson. Darwin avait raison. Darwin avait raison, je ne suis plus un primate. Si je suis à quatre pattes, c'est pour les relations. Accroché à la branche, suspendu aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin avait raison. Darwin avait raison. format de tête. Hier j'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain Darwin avait raison. J'avais raison, j'ai quelque peu changé. Changé de religion, lunettes et pantalons. J'ai travaillé au charme, fait la révolution. Fait le chat, pris le zar. Darwin avait raison. Feloce, cantante e musicista francese, e il brano che abbiamo ascoltato è Darwin avait raison. Ah, mais oui! Ma io lo sostengo almeno da qualche anno. Dopo la teoria dell'evoluzionismo, io ti sei fermato. Sì. Io sono rimasto lì. Alla lui Blatt, era francese. Sì. Feloce, ragione. Darwin era francese. Era chiaramente. Vedi, io mi starei a ascoltare per ore come sempre. Bene, ma no, aspetta, sì, vabbè, facciamoglielo dire subito, ormai. Sì, vai, sì, vai, sì. Dimmi. Dal 1976. Ma perché? Radio perché? F. Oh. E stasera abbiamo con noi uno dei fondatori di Radio F, appunto. E questo Giorgio dimostra Gervasi. La teoria dei cicli. Cioè, che dopo quasi 40 anni a volte ritorna. E ritornano in salute giovanissimi, sì. Peraltro, perché conta. Conta. Mi scusi, signori. No, c'è da dire che stasera è un'altra veste, ma più avanti rifaremo anche una puntata con tutti i fondatori della radio, perché faremo anche la storia, la nostra storia, la rinarreremo. Però insomma, ci faceva piacere ricordare che tra i colpevoli della fondazione di Radio F. Ma questo ci dice anche un'altra cosa, Enzo, che ci sono dei personaggi a Foiano, ma penso anche in tanti altri paesi, che nei tempi che passano si trovano in tutte le iniziative, in tutte le i più grandi avvenimenti del posto. Avvenimenti. Ecco, questo è uno sport nazionale, capito? Giorgio è uno di questi, insieme ad altri, e chissà, anche se noi tra 20 anni potremmo, forse 30, tornare qui come ospiti, magari. Sì. Dire, all'epoca c'eravamo anche noi. Ma parliamo degli anni 30. Perché veramente che c'è 30 anni. Assolutamente. Se poi passa sto messaggio. Allora precisiamo, io devo precisare attento. Che l'ospite è giovanissimo. Brava. Giovanile, diciamo. Bellissimo, attraente, fisicamente, affascinante, fisicamente, prestante. Ma poi ti dirò, ma poi lo scopriamo più tardi, che anche quello sembra scolpita, più che ti dirò, sembra più una schiena di un opossum che l'invidia di Marzi. Sarina, sei bravissima. Ascolta, mi posso permettere, sì. Perché di Giorgio posso anche dire che ha delle grandi capacità canore. Senti. E il fisico è temprato per uno sport che abbiamo immeritatamente, per me, praticato anche insieme. Beh, ma senti, queste cose potremmo fare alcune puntate solo sul del rapporto, no, del rapporto tra me e Giorgio, perché hanno cantato insieme. Detto così è ambiguo, perché sta giocando su questo, anche Village People. Da testimone posso dire che avete cantato assieme, Giorgio. Questo è verissimo. E giocato assieme nella misura in cui io portavo i palloni, esatto, lui Giorgio giocava. Era protagonista, titolare di una squadra famosissima, ma parleremo anche di questo in un'altra puntata. che devo venire tutte, le, tutte le settimane, tutte le settimane devo venire, esatto, no, e Marcello è stato l'unico ospite che ha portato i pasticcini, quindi io proporrei di tenercelo per non sempre. Solo ho portato anche il Vinzato, la più bella donna, perché solo stasera non veniva, non veniva Sara, solo perché ci sei e per questo ti ringraziamo, noi dovevamo fare un cappello sui Lumacons, che a questo punto non lo facciamo, cilindro. Ma no ragazzi, no, ma non era due su parole, no, fate quello che volete, ma io sapevo che ma se, se, in teoria sì, perché parlando del curriculum di Giorgio potremmo fare una puntata, perché pare che abbia conosciuto anche il Fosso, permettetemi di dire che anche quando scoprì l'America, Colombone, Colombo, da niente. Permettetemi di dire che Giorgio ha partecipato telefonicamente, è già intervenuto una volta nelle vesti in di un'altra veste, nella veste di presidente del cantiere dei rustici. Sapete con quale difficoltà potremmo affrontare questo argomento io e Giorgio, per cui passiamo oltre, esatto. Diventando rosso. Ma vogliamo dire due parole? Diciamo lasciamo parole. Introdurre Lumacons da Enzino e Mazzi che si sono preparati. Mi che sembra dice giusto, Giorgio? Mi allora, sembra giusto. Correva l'anno 1972 circa. Dal 1972, quando un gruppo di giovani dell'epoca di riunirsi, ma in realtà all'inizio non si chiamavano Lumacons, ma bensì Casel Band. Ecco, sentiremo poi appunto dalla voce di Giorgio come, quando e perché diventarono Lumacons. La loro prima uscita ufficiale, narrano le cronache, che fosse alla Festival della Canzonetta del Carnevale nel 1973, e da allora ne sono successe di ogni, per cui abbiamo qui appunto Giorgio che ce le racconterà. E la loro storia finisce circa in che anno, Giorgio? Nel 1980? Bah. La storia vera finisce prima degli anni 80. Ah, quindi diciamo una parentesi all'interno degli anni 70. Dopo la costruzione del circolo. Di cui parleremo. Diciamo della prima birreria esistente in tutta la provincia di Arezzo. Sì, sì, la sì. La vera birreria. Ecco, quindi diciamo 7-8 anni di storia, 6-7 sì. anni di storia. Che e hanno poi scritto la storia musicale di Foiano. Che hanno segnato la storia musicale di Foiano, ma anche di noi giovani, noi che giovani viviamo nel mito di questi Lumacons. E soprattutto anche delle persone del circondario. E poi vi dirò. E vedremo, parleremo anche di questo. Va bene, beh, mi sembra un buon inizio, eh? Sì. To tonight. allora iniziamo così ad immergerci nella musica di quegli anni, la musica che magari era anche quella di riferimento dei Lumacons, e lo facciamo davvero alla grande, perché abbiamo appena ascoltato Arnold Lane, che è il primo singolo storico dei Pink Floyd. Io quindi... ho già messo i pantaloni a zampa d'elefante, tanto per entrare, sì, un per po' entrare un po' nel tempo. Io avrei voluto farmi crescere i basettoni, ma ovviamente ciò è impossibile. Più che altro noi avevamo i capelli lunghi. Più che i basettoni, lì è ancora più difficile. Sarei emarginato. No, volevo arrivare lì. Volevo dire, quindi per pensare, no, il codino magari ce la faccio. Ma con grande sforzo di fantasia avrei potuto coltivare il sopracciglio. Ma questa è un'altra storia. Questa è stata carina. Allora iniziamo. Marci, fagliela te la. Sì, ti ringrazio perché questo è un onore. E voglio sapere chi voglio furono, sapere. Voglio sapere. Voglio sapere. Come? Voglio sapere chi furono i personaggi veri, i fondatori dei Lumacons. E come nascono? Guarda, dare una risposta di questo tipo è impossibile. Diciamo che c'era un'anima predominante, che era quella di Moretti Mario, il Moro, che io lo chiamavo il Moro, gli altri il Picche, che è stato, diciamo, colui che ha fatto partire tutta questa situazione. Ti posso dire un aneddoto che è questo. Un giorno mi disse: ascolta, perché si fa una cosa? Te piglia tua, io piglio mia, e ci si mette tutti insieme. Ecco, spiegacelo questo, perché... Perché in quel momento, anche, ma non tanto per un discorso d'età, per un discorso di visione del mondo, c'era una situazione... Se qualcuno, scusate questa parentesi, se qualcuno conosce il mondo inglese di quegli anni, dove c'erano i Mods e i Rocks, praticamente i Rocks con le motociclette e con i giubbotti di pelle, e al posto della brillantina si mettevano l'olio della moto nei capelli, sì, e invece gli altri con la lambrettina o la vespa e con la giacchettina o la cravatta. Questi erano due mondi diversi, contrastanti lì. Qui invece siamo riusciti a Foiano a riunire questi due gruppi, cioè il gruppo di quelli che il Picche chiamava i moderati, sì, e il gruppo del Picche che invece erano quelli agitati. Quindi ti eri nei moderati? Io in quel momento ero nei moderati. Si stenta a crederlo. In quel momento, ha precisato. In quel momento ero... Aspetta, sempre moderati e agitati, erano, cioè, moderati rispetto a era uno shaker esagerato, quello degli altri. Ecco. Perché dopo, quando vi racconterò qualcosa, direte: ma che ci inventi? Ma ci sono le testimonianze di centinaia, certo, di persone. Quindi, però, se mi permettete, vorrei fare un passo indietro, perché se non faccio il passo indietro, la gente che ascolta non può capire. Perché se vede la cosa con gli occhi di oggi, è impensabile dire: ma che cosa c'è di diverso da quello che può succedere adesso? Allora, le ragazze, qui ce n'è una stupenda davanti a me, uscivano solo il sabato e la domenica pomeriggio. Sì. Dal lunedì al venerdì era solo un discorso di uomini. Questi uomini erano alcuni fidanzati e altri no. I fidanzati andavano a trovare la fidanzata dalle 9 alle 10 in casa, se erano fidanzati in casa, certo, come si suol dire, vale a dire se già la famiglia conosceva il soggetto. E conoscevano. Questo è importante, ascolta. Così sto parlando. Voi non ci vedete, ma sto parlando con la ragazza più affascinante. Con Sara, si pensa che lei sola, cioè lei sola è affascinante veramente. Allora, il discorso è questo: se un gruppo di ragazzi, tanti, dal lunedì al venerdì stanno soli, che cosa fanno? Cioè, qualcosa devono inventare, certo, si annoiano. Oggigiorno vai in birreria, c'è la ragazza, parli, vai a ballare, vai a fare tante cose. Allora non esisteva niente di tutto ciò, solo il sabato e fino a un certo orario. Chi era più fortunato andava via prima perché poi faceva altre cose, chi non era fortunato alle due era a letto. Okay. Questa era la storia del momento. Quindi pensate a questa situazione, e quindi tutte le cose le vedrete con occhi diversi. Da lunedì al venerdì questo gruppo che cosa doveva fare? Andava al bar del Brandini, mm-hmm, perché quello era il luogo unico per noi. Dice: perché? Perché gli altri chiudevano alle 10, il Brandini aveva le famose birre speciali, chiudeva alle 2, poi con noi anche alle 3 o alle 4, ma insomma alle 2, l'orario che gli aveva dato ufficiale. Il comune. Allora si chiamavano birre speciali. Lui c'aveva questo permesso e noi si stava lì, però t'annoiavi, non potevi stare tutta la sera in un bar, e allora si prendeva, si usciva, si andava a fare quelle zingarate famose. Gli amici miei, noi si sono fatti 10 anni prima, cioè è una cosa nostra toscana probabilmente, non lo so, ma tutte quelle cose lì si sono fatte e rifatte. E una che ci piaceva tanto, questo lo dico perché dà il nome, proprio il primo nome che già è stato citato nella trasmissione, ricordiamolo, quello Castel Band. Noi andavamo al casello dell'autostrada di Bettolle a rompere le scatole alle prostitute. Ho usato prostitute. Bravo, Giorgio, bravo. Alle prostitute. E ci divertivamo in quel modo. Un po'. Quindi Castel Band, Castel Band, la banda, la banda del casello. La prima canzonetta del carnevale che è stata fatta, infatti, portava questo nome dal gruppo. E non era Lumacons, che dopo vi dirò perché, se me lo chiedete, è venuto fuori e da chi questo nome. Sì. Quindi questa è la situazione reale del momento. Perfetto. Tutti uomini che non sapevano come sbattere la testa e inventavano di tutto e di più, a giocare a frisbee per il viale, per esempio. Bellissimo. Va bene, guarda, direi abbiamo contestualizzato benissimo la situazione. Adesso, prima di andare col prossimo brano, però ci devi dire una cosa che è importante, perché poi a un certo punto avete avuto anche un logo, e siccome il prossimo brano e diciamo proprio cade a fagiolo, parliamo un attimo di questo. Sì, è verissimo. Ora non lo so, qualcuno di noi ce l'ha sempre, io onestamente non ce l'ho, però l'adesivo abbiamo fatto migliaia e migliaia di adesivi al momento. Sì, abbiamo cercato anche di trovarli in bianco e nero perché costavano meno, no? Perché vedevo loro a quei tempi costavano una cifra, stiamo parlando degli anni 70. Certo. Io ero piccino due anni e mezzo. Però non so perché mi tenevano lì, ma sono i primi esempi di bullismo, però mi ricordo tutto. Bambino prodigio, è un bambino bravo. Mi piaci sempre di più, un bambino prodigio. A quel tempo, quindi, facemmo questi adesivi e gli adesivi vennero fatti in bianco e nero per quel motivo. E in pratica era un misto fra la copertina di Jethro Tull e c'era un personaggio che faceva parte e non parte, era quello che poi ci ha scritto le canzonette, il Foianesi. E il figliolo di Pecorone, perché se c'è qualcuno che ascolta Walter che ancora è vivente, fortunatamente. Foianesi era il nostro paroliere, era quello che ci scriveva le canzonette del carnevale, e venne fuori questo misto fra lui e il vecchietto di Aqualung, con un muro di dietro tipo The Wall di Pink Floyd, e questo con il bastone che camminava e andò a ruba. Infatti non so quanti ne facemmo, di perché era veramente una novità. E allora non possiamo altro che mettere cosa? Boh, lo diciamo dopo? Lo diciamo, è meglio, va? Grazie. È già partito ormai. and cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a docket, he goes down to the bar and warns. E allora, eccolo qua il brano di cui stavamo parlando prima, ovvero Aqualung dei Jethro Tull, a cui si è ispirato il gruppo dei Lumacons per il logo. E infatti nella copertina del disco c'era una foto della moglie di Ian Anderson con appunto questo senza tetto di cui parlavamo prima con Giorgio Gervasi. Esatto, continuiamo allora con Giorgio a parlare dei Lumacons. Abbiamo fatto un po' una contestualizzazione della situazione, del perché, del bisogno, della necessità di avere un gruppo. Giorgio ci ha detto che c'erano questi due gruppi che poi hanno trovato uno scopo comune e si sono uniti. Di che numeri si parla? Quanti eravate su per giù? Cioè, inizialmente 20-30 persone, ma nelle manifestazioni come la Società del Carnevale faceva tipo la canzonetta, diventavano 300-400. Ecco, infatti affrontiamolo subito. Noi abbiamo parlato in una puntata durante il periodo del Carnevale del Festival della Canzonetta, vi abbiamo menzionato perché sono rimaste storiche le vostre diciamo interpretazioni, le vostre presenze durante il festival. Ma voi siete famosi perché avete vinto più volte e la leggenda narra che non vincevate esclusivamente per le vostre capacità canore, ma anche per altri motivi, diciamo organizzative. Raccontaci un po' la verità storica. Visto che sono passati 40 anni, si può prescrizioni. Cioè, prima eravamo i più bravi. Senza dubbio, questo era un dato assodato. In quanti cantavate circa? No, numero diverso negli anni, perché il primo anno eravamo 10. Dopo, siccome ci volevano boicottare, e c'era un motivo, e al momento era un motivo per loro valido, poi dopo si sono accorti di aver fatto un grosso errore, perché quando c'eravamo noi c'erano 400 posti sicuri presi. Ecco, quando abbiamo smesso dopo 3 anni, noi 400 posti non ci sono stati più, perché noi prendevamo i biglietti direttamente, li compravamo noi e li assegnavamo noi per stare tutti insieme. Okay. La galleria era tutta nostra. Perfetto. Completamente. Compravamo tutta la galleria. E poi i ragazzi venivano a comprare i biglietti da noi per essere tutti insieme. Questo perché? Questo perché? Perché noi facevamo la canzonetta, eravamo i più bravi e nello stesso tempo dovevamo vincere. E c'era un rivale agguerrito, che poi è stato quello, guarda il caso strano, che ci ha dato il nome Lumacons, da Castelband. Che era? Che era il povero a questo punto, perché è morto una grande persona, Sergio Franceschini. un bravissimo autore, suonava il violino, scriveva le musiche di carnevale, un appassionato di musica e di carnevale. Era, fra virgolette, un nostro nemico. Certo. E fu lui che una volta, vedendoci tutti appollaiati in un posto, passò e disse: mi sembrate un branco di lumaconi. E lì l'ispirazione. E da lì venne fuori questo Lumaconi, Lumacos Group, inglesizzato con la S genitivo sasso. Ah, ecco, la S genitivo sasso. È stata una lunga discussione. Lumacon genitivo sasso. Gruppo dei Lumaconi. Gruppo dei Lumaconi. Ok, perfetto. Da Lumaconi, che era quello originale. Sì, sì, sì. E infatti, quando noi poi si cantava, inizialmente 10, poi ci tolsero delle persone, si passò a 7 e l'ultima canzonetta 4. Ma la cosa, fra virgolette, sempre più schifosa fu che all'inizio la giuria aveva 150 voti e tutto il resto erano tutto il resto era il pubblico, e quindi aveva una certa potere. Essendo la canzonetta del carnevale, chi doveva vincere? Quello che amava il pubblico per il carnevale dei Foiati. Certo, certo. E la giuria doveva guardare l'aspetto tecnico e basta. Il secondo anno passò questo a 450 voti e vincemmo lo stesso, e il terzo anno a 900 voti. Quindi più dei presenti. Più dei presenti. Quindi dovevamo prendere per vincere, arrivavamo terzi l'ultimo anno, tutti i voti, tanto forse perdevamo lo stesso. Esatto. Perché eravamo al Teatro Apollo, Cinema Teatro Apollo, e teneva circa 900 persone. Quindi era impossibile vincere, perché facevano apposta per boicottarci. E quindi voi dopo il terzo anno. Momento io li capisco anche, perché tutti gli altri non voleva partecipare più nessuno, perché non c'era più gara. Non c'era più gara, vincevamo sempre noi, e ovviamente. Però con noi hanno fatto anche due serate. Sì, le preliminari e la serata finale, sì. Vabbè, meglio di Sanremo. Sì, addirittura, perché sono riusciti, e nella serata, diciamo, chiamiamo le semifinali, c'erano sempre 600-700 persone. Quindi insomma era un successo. Quindi era sempre un successo. Figurati la volta dopo, proprio in piedi la gente. Esatto. E dopo tutto questo non c'è stato più. Se ne sono accorti tardi, ma ormai anche Lumaconi non c'erano più. Ecco. Il successo con il pubblico, Giorgio, da dove derivava secondo te? Questo, anche il fatto di seguirvi, di partecipare per voi. Allora, diciamo che la mafia ha imparato da noi. Questa spero che sia una battuta. Sì, che l'abbiano capito. Sì, che l'abbiano capito. Nel senso è che una battuta. Noi avevamo tutte le amicizie, ovviamente, già essendo tutti quelli che eravamo. Tutti quelli che eravamo, ovviamente, avevamo tutte le amicizie, le fidanzate. E quindi chi le mamme, chi i babbi, eccetera eccetera, quindi c'era già un bacino importante. Notevole, importante di voti. Ma una cosa che voi dovete sapere, che questa è veramente carina, quando cantavano gli altri, perché ho detto la mafia, e chi li sentiva? Ah sì? No, c'era dalla galleria un continuo. E tutti Lumaconi, mentre cantavano quell'altro. Quando si arrivava a noi, c'era il tripugno, c'erano le castagnole in galleria, i fuochi, infatti arrivarono carabinieri, portarono dentro le persone. No. E pensa, in un cinema, i razzi, le castagnole. Ma... Così. Cioè, queste sono verità, capito? Non è che sono cose che uno dice, sì, perché sono passati gli anni, c'erano decine e decine di persone che hanno visto, perché la galleria era solo nostra. Esatto. La compravamo noi. A proposito di canzonette, avevate anche una vostra canzone? Sì, quella era la canzone del gruppo. Infatti ogni volta che abbiamo vinto nei due anni, si usciva fuori nella vittoria, tac, si usciva fuori dal palcoscenico e si faceva questa invece della canzone che aveva vinto. Ah, proprio? Che ve la improvviso, veloce così. Poccia pecora, pempe, tuglio di broglino, pempe. Cioè praticamente usavamo tutti, ecco, i soprannomi della gente di Foiano, perché noi siamo veramente persone di Foiano, eravamo, lo siamo, tuttora, perlomeno chi ci è rimasto, certo, qualcuno certo. Sfortunatamente ci ha lasciato, è sempre nei nostri cuori. Allora, Questa gente è sempre ricordata nella canzone perché erano i soprannomi che avevano messo, e noi avevamo saputo magari dai babbi, dai nonni. Sì, sì, perché sì, certo. Da noi funzionava così nel nostro paese, chiaro. Più per soprannome che per nome. Ora un po' questa cosa è un po' passata, ma allora il 90%, per non dire il 100%, era così. Certo. E noi usavamo la canzone Get Up di James che stiamo Brown, già sentendo in sottofondo, e che poi partirà, E noi la usavamo invece per le nostre cose. E allora in omaggio Brodino Pempè bellissimo, in omaggio a questo Sara Get Up. Eccola. Get into it, man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as you're born. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. You got to get that. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Bobby, can I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. Yeah. Hit me now. Come on. Stay on the scene. Like a sex machine. The way I like it is the way it is. I got mine. Dig it. He's got his. Stay on the scene. Like a loving machine. Stay on the scene, like a loving machine. Stay on the scene. I wanna count it off one more time now. Go ahead. You wanna hit like you did on the top, fellas? Hit like you did on the top. E questa è... E questa era Get Up in onore proprio dei Lumacons. Questa era la canzone con cui uscivano quando venivano premiati al Festival della Canzone. Bellissimo, siamo immersi prima in questa atmosfera. Prima di rimergerci in tutta questa rievocazione, nemmeno tanto storica, perché si parla nemmeno di 30-40 anni fa. Consiglio che Giorgio ha 30 anni ora, quindi qualche saluto. Io volevo salutare il gruppo d'ascolto Toscina. Ah, un saluto che ci stanno ascoltando. Volevo salutare Sara. No, scusa, non si chiama più Toscina, no. Vecchie Maniere. Vecchie Maniere. Il gruppo d'ascolto di Vecchie Maniere. Pardon. Sara, la nostra fedelissima Edi. Ma come non salutarla? Poi Cecilia, Sara, Riccardo da Milano, Francesca, Milva, Barbara che ci ascolta dalla Svizzera. Stefano, ma poi ce ne sono anche altri. La Cinzia. Brava, la Cinzia, Sara. Ancora, quante Sara ci sono? Ma sai che Sara si va a mandare. D'altronde Sara, di qualcosa, cioè Sara è Sara, svegliati prima. Sempre anni, fine anni 70, poi siamo sempre lì. E poi ancora Andrea Rosignoli, Rachele, Romina, Milva, Manuel, basta, Samuele, Caterina, tanti, insomma, tanti. E tutti, grazie. Gli altri che non riusciamo a nominare, però anche li salutiamo tutti. E ricordiamo allora anche il nostro canale YouTube. Visto veramente. Ricordiamo. salutiamo. Dopo vengo un piede. Dove è peggio? Ecco, vediamo le distanze, ma ci potete anche vedere. Vedere domani, perché ci sono le riprese, il video, grazie a Paolo e Simone che ci stanno riprendendo. Paolo ci sta riprendendo, lo salutiamo. Simone sta conducendo e saluta. Controlla. Ciao a tutti. Ma anche Paolo. Lo facciamo domani, perché siccome andiamo in Mondovisione, lo facciamo in contemporanea con tutto i carabinieri. Perfetto, è finta, fagli vedere che è finta. Scusate, qui ci sono altre cose, ma non importa, prendeteci così. Io volevo chiedere a Giorgio, che io ho scoperto con grande stupore che avere una tenera età, oltre ad avere un logo, ad avere una canzone praticamente della vittoria per le loro prestazioni canore, avevano anche un motto che è ricorso spesso nella nostra trasmissione, più di uno, ecco, la diceli tutti. No, se mi dai il via magari mi vengono il via, uno di cui sappiamo noi qualcosa. Io so che uno Fiorello se passi vita usso un bove, uno era questo, esatto, ecco. Ma questo che significa, niente, queste erano le rime dell'umano, niente, ma non fare che così. Non volevano dire niente, ma su questo si costruisce si costruisce la storia. Come su nulla se passi vita usso un bove, così, perché poi tra l'altro l'immagine da usare un bove, però vedi, ora prima forse non abbiamo approfondito il discorso dei soprannomi che faceva prima Giorgio, e anche che lui lo limita al territorio della Chiana, eccetera, era, oggi dice si usa meno, ma anche perché prima c'erano delle famiglie molto numerose, il soprannome derivava proprio come segnale di appartenenza anche a una, certo, famiglia, e quindi era un segno anche distintivo. Certo, è vero. Oggi forse si potrebbe pensare Colombone. È il cito delle colombine, il cito dei piccioli, ora dico gli animali. Ma poi gli animali svolati. Colombone, colombine e piccioli. Chissà perché si parla sempre, insomma, del ramo uccello. No, Giorgio. Non mi guardare così. Era una facile battuta, ma mi sembrava. Ovviamente è puramente casuale. Certo, no, ci mancherebbe. Allora, senti, avevi detto all'inizio, Giorgio, che praticamente è stato anche un bisogno questo, creare questo gruppo, perché donne se ne vedevano poche, se non punti. Dal punto sul vivo, pochi dal lunedì al venerdì. Certo. Sabato e la domenica ci si faceva. Ci mancherebbe altro. Ma volevo chiederti, ma poi nel gruppo le ragazze ci sono state qualche le ragazze del clan. Bello, proprio come Adriano Celentano. Perché ritornando alla canzonetta, chi è che andava a ricevere tutti i biglietti delle votazioni? Ah, certo, ok. E quelli che sparivano dei voti, quali erano quelli dei francesi? I loro. Ecco, raccontaci come facevate. Perché noi avevamo, cioè, più che altro dovevamo individuare quello che era il nostro rivale del momento. Ok. Questo è quello a rischio, no? Allora, che si faceva? Le nostre donne andavano lì, ritiravano i biglietti. Perché poi ufficialmente loro dovevano ritirare i biglietti. Ritiravano con il cestino. Erano le incaricate. Ma nel tragitto da lì, non so se vi ricordate com'era l'Apollo. Certo. Io giovane, non te lo ricordi com'era l'Apollo, il cinema? Qualcosa sì, ho dei vaghi ricordi. Ma di qualche bacio film. Me l'hai dato. Ho capito, però, cioè, così. Guarda, no. Giorgio. Dai. Non lo doveva dire. Guarda, Giorgio, che io e Marcello, non so se ti ricordi, abbiamo anche presentato una delle ultime edizioni del Festival della Canzonetta, in come cui io direttore artistico. Ma grande successo. Grande successo. Un connubio artistico. E si surara questa coppia, mi piace. È da lì che iniziava la nostra carriera. E mi avete invitato voi per quel motivo. Certo, ringraziamento per e per questo io ti volevo ringraziare, perché da allora. Ma si parlava dell'Umaconte. Ecco. Quindi, tornando alle ragazze, prendevano i biglietti da sotto dalla platea, dovevano salire su perché la giuria l'aspettava, cioè chi faceva il conteggio, diciamo, l'aspettava dove era dietro la biglietteria al bar. Non so se sì, qualcuno ha presente. Quindi c'era un punto in cui non vedeva nessuno. Dovevano passare di sotto, salire le scaline. In quel momento, che facevano? Ci avevano pieno il reggiseno di quelli che riuscivano, che non erano di quelli che dicevamo noi di cavare. O delle mutande, quindi cioè praticamente 5-6 cavava quelle, 5-6 quell'altra, insomma, quindi, almeno 30-40 voti riusciamo a cavargli. Intanto anche quelli funzionavano, mai dire mai, no? Certo. Era tutto, poi dopo era tutto organizzato. Per esempio, un esempio per tutti: l'ultimo anno abbiamo fatto il brano Le trecce della Sora Biguzzona, intitolato. Okay. E allora che successe? Quando cominciamo a cantare noi, arrivarono tutte ste ragazze, tutte vestite con la minigonna, che regalavano le trecce a tutto il pubblico. I dolci, le trecce. I dolci, le trecce a tutto il pubblico. Ruffiani. Te l'ho detto, peggio della mafia, proprio una mafia intesa, belle, intesa in senso buono, però fa proprio, capire, insomma, diciamo, teste, come... Cioè, vabbè, perfetto. Ora, siccome qui sta diventando, stiamo finendo già la trasmissione. E la forza, no, scusa, questa sì, la devo ancora... dire. Questa la devo dire perché è la cosa più carina del periodo della canzonetta. C'era un divieto assoluto. La canzonetta, come a Sanremo, doveva essere. Questa è meravigliosa, è assolutamente non conosciuta. Doveva essere un brano, inedito. Ok. Allora, che facevamo noi? Per metterla negli orecchi della gente. A quei tempi il Moro, che sarebbe il P, che sarebbe Maretti e Moretti Mario, certo, c'aveva un 1100 nero, sì, dove montavamo 12-13 in questo 1100 nero veniva messo davanti al suo negozio, dove è ora la gelateria. Ok. Lì c'era il negozio suo, la gelateria, non mi ricordo. Vabbè, una cosa, la quella davanti alla farmacia, per capirsi. No, non quella di là, la sì, farmacia, sì, davanti al fruttivendolo. Bravo, bra- fruttivendolo, bra- bra- che se no poteva sembrare quella al piazzone, no, l'altra. Allora, a quel punto lì, con questa, con i megafoni lì fuori tutto il tempo, dalle 8 la mattina a tutta la sera che non chiudeva, c'era non la nostra canzone, ma la base della nostra canzone. Che fenomeno! Con quel motivetto, il subliminale, esatto, proprio si adeguava. Così la sera. E la gente l'aveva nell'orecchio. Quando arrivava a ascoltare. La sera prima, un mese prima. Però. Quando poi arrivavi, quando arrivavano ad ascoltarla, era il brano che avevamo. Guarda che noi eravamo serie. Allora devi sapere, la prima volta che abbiamo fatto la canzonetta in 10, abbiamo cantato, c'è stata una selezione di 70-80 persone. Ah, sì, addirittura. Cioè, c'era una selezione, diceva, no, te per amor del cielo sei stonato. Cioè, e il bello è che chi non cantava dopo era il supporto. Ah, perché sì, diceva, sì, certo, quello canta meglio per noi, perché tutti per lo stesso obiettivo, la vittoria. Quindi, esatto, del gruppo. Dice, no, è vero, quello è più bravo e cantava quello, cantava quello e cantava quello. E si rimase in 10. Come vi dicevo prima, l'ultimo in 4. Bello, bello, bello. Senti, poi, siccome qui purtroppo veramente il tempo è rimasto veramente poco, ti volevo fare una, dobbiamo farti un altro po' di domande, ma rifaremo anche un'altra puntata. Trasferiamoci. Si potrebbe fare volume 1, volume 2, volume 3, ma probabilmente anche perché mi piace la serata per altri motivi. Ma qui, se consideriamo tutte le attività che hai fatto, Giorgio, potresti venire realmente tutte le settimane. Loro due mi chiamano più, non mi chiamano più. Te l'assicuro. Sempre chiamarti in caso. L'unico modo è quello che loro due contaci. Sono già sbagliati, quindi loro sono a posto. Male, guarda tutti. Stasera c'è Simone che alza le braccia. Ha ragione. So andiamo con un altro brano. Andiamo con un brano di musica. Sì. Prego. Poi Traffico. Sì, grazie. La notte cade su di noi. La pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai, ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi ci disprezzate, come mai? Ma che colpa abbiamo noi? E se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è, e se non la sapete voi, oh yeah, e se non la sapete voi, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Che colpa abbiamo noi? Loro erano i The Rocks. Qualche colpa l'abbiamo. Gruppo non di Shel Shapiro. Non ce ne vogliate. Dici che qualche colpa ce l'abbiamo. No, ma non stasera, nello specifico. In generale sì, qualche colpa ce l'abbiamo. Ma pare allora, che molte colpe ce l'abbia proprio Giorgio. Sì, ma, sì, ma prima. Mi piace ma prima. No, ma è spuntato così dal nulla. Sapete ma che io ho andato, devo... andato col fuso orario di 15, no? Un'oretta dopo, sì, Sara, appunto. vai. No, semmai un'ora in... Ma non lo vabbè, so, ma non ci... Comunque dobbiamo ricordare gli appuntamenti della nostra pagina Facebook. Yes. Intanto domani troverete il podcast di questa puntata tarda mattinata, perché sì, abbiamo... gli artisti si svegliano tardi. Ma qualcuno forse, ma non importa, cioè, non importa. E poi sempre sulla nostra pagina Facebook si trovano le due rubriche di Piazzalta, ovvero una serata da Leone e gli appuntamenti del weekend con tutti i consigli per il fine settimana. Ma chi le cura queste splendide rubriche? Udite dal nostro Simone. Sei pronto già per il prossimo appuntamento? Sì, prontissimo. Bravo. A posto. Bene, Max. Lui è il tecnico con il manico, no? Il regista non si inquadra mai. E il movie maker qui Paolo che sta facendo il filmato, eccolo, un selfie live. Giorgio, io vorrei trasferirmi dal Cinema Teatro Apollo, che è stato teatro chiaramente di tante performance vincenti, a il locale che a un certo punto è stata l'idea anche iniziale, che vi ha unito nei due gruppi di cui parlavi all'inizio, dei moderati agitati e degli agitati puri agitati. E vorrei sapere come è nato, come è stato individuato, sì, un sì, po' sì, la storia. Mi piace questa domanda perché vorrei sfatare una cosa che la gente non conosce. Quel locale lì è nato per volere solo di una persona, del Picchio. E infatti chi ha partecipato al restauro del locale, perché lì c'era di tutto e di più, non ero certo io, su questo, chi ti conosce lo sa, persone che con l'Umacons non avevano niente a che fare, cioè allora, l'Umacons ha dato l'ok, però il PIC, che era parecchio furbo sotto questi aspetti, ha preso 3 o 4 persone, 5, sapendo che gli poteva interessare il business, dicendogli guarda che si fa sto locale così e così, perché onestamente sotto questi aspetti era avanti lui, cioè già pensava a fare un locale che poi in realtà è stato il primo, la prima vera birreria di tutta la zona, ma non solo a Fogliano, a Arezzo addirittura non c'era una birreria come questa, veniva gente da Siena, da Arezzo, da tutte le parti. E poi questa è stata proprio la fine di quella birreria, perché venivano di tutti e di più. Allora lì ha lavorato gente che con l'Umacos non c'entrava niente, perché però era in società del locale, cioè quindi gli eventuali utili avrebbero presi quelli, noi l'Umacons. L'Umacons partecipava a tutte le performance, venivano attori di tutti i tipi, dallo Spogliarello integrale a chi citava le poesie la sera, e un locale paio... off praticamente, ma off. Cioè cose che voi non vi potete rendere conto. Cineforum, ma bellissimo, con dibattito bellissimo, da Easy Rider e Compagnia Bella, proprio veramente, ma cinepresa, tutto. Ogni sera c'era qualcosa di diverso. Di questo, guarda Giorgio, permettimi, tanto ormai stiamo arrivando alla fine, ne parleremo un'altra volta seriamente, ti rinviteremo, no seriamente, sì. Cioè, ti inviteremo. È una promessa davvero seria. È una promessa seria, ma poi il tono deve essere quello che abbiamo avuto stasera. Però ecco, dove era di preciso? Magari qualcuno non lo sa. Allora, l'avete presente, per far capire ai foglianesi perlomeno, certo, c'è la piazza della Collegiata, dove c'è il locale vecchie maniere adesso, sì, ci sono le scalinate, subito la prima porta a sinistra dopo le scalinate, quella era il Lumacons. Dunque, quello di chi era il locale? Il locale era di un privato? Era di un privato che scriveva in Paese Sera. Ah. Era un giornalista, ancora il figlio lo conosco benissimo, è architetto e lui lo dette in affitto, ma era un locale? Cioè, ecco, diciamo, infatti, le condizioni. Diciamo, era, non so neppure come dire, un fondo, cioè, c'erano addirittura teschi e ossa. ma no, come battuta, era verità. C'era un bottino, c'era di tutti. Che quelle praticamente sono, era la prima, è la prima cerchia muraria. La prima cerchia di muro di Foiano, proprio la prima porta. Quindi 1300 circa. E c'era di tutti di più lì. E venne fatto con poche spese e tanta mano d'opera, non da parte mia. Bravo Giorgio, non vorrei prendere no, i meriti. No, che... no, ma poi soprattutto però andava... hai anche un'immagine no, da andava prendere. A vedere i lavori sempre. Poi dopo ho partecipato all'espansione del locale, però cioè oltre quello. E all'inizio quel locale era divino, perché? Perché nonostante l'umidità, nonostante, ve l'ho già accennato, si faceva veramente cultura, ora a parte le battute, sì, certo. Facevamo cultura e era tutta per gente di Foiano e paesi limitrofi, amici nostri, Bettolle, Torrita, Sinalunga, che già si erano inseriti nell'Umacons. Dopo ha preso invece un'altra strada, perché questa grande fama di questo locale ha fatto venire gente da troppo lontano, okay. E l'avete già capito, certo, quindi certo. Da troppo lontano porta sempre qualcosa che non va bene. E quindi dopo c'è stata la fine di questo locale, fortunatamente ha preso fuoco, perché io dico fortunatamente perché altrimenti sarebbe stato probabilmente chiuso. Ah, quindi c'è stato un episodio, diciamo. E quando però ha preso fuoco già il Lumacos lì non esisteva più. Io mi ricordo l'ultima volta che ci sono stato, un anno prima che prendesse fuoco. Che anno era, Giorgio? Diciamo 78-79, mi posso sbagliare. Sì, vabbè, ok, tanto per... Cioè, sono entrato, mi sono girato intorno, guardavo tutta la gente, non ce n'era uno che conoscevo. Sembrava di essere in un locale qualsiasi dove vai a ballare in una discoteca. Allora dico, non è più il mio. Quindi locale. Giorgio, Lumacons in origine è più come un modo di essere, un modo di pensare, che non poi dopo come si è evoluto. Sì, perché hai fatto una domanda importante, perché l'amore vince sempre. E tutto l'universo obbedisce all'amore. Gli amici da casa non possono vedere lo sguardo di Giorgio. Mancano i cuori e simili. Noi avevamo peace and love. No, ho fatto questo paragone perché ora te l'ho detto in un altro modo, ma in quel momento era peace and love, perché sì, a noi ci piaceva divertirsi. E non ho detto degli Woodstock. Cioè, ormai abbiamo sforato a cena, ma scusate, veramente ci ritroveremo nel presto. 72 abbiamo fatto il Woodstock della Val di Chiana. Guarda, io purtroppo rimaniamo così. E nel 73, nel 72 a Villa Magi, con la sfagiolata alle 2 la notte, con tutti i gruppi che venivano da Firenze, da Siena, una cosa, oltre gli Angeli Blu. Beh, sì. Cioè, guarda Giorgio, è bellissimo. Io purtroppo direi che questo era il Lumacos Group, che non è che era un gruppo che stava lì a vegetare, o come succede ora che vedi questi ubriachi fradici, si beveva come loro, forse di più, ma ci si muoveva, ci si divertiva e si facevano cose importanti e interessanti per tutti. Perfetto, io direi di chiudere qua, Sara, sì, con la promessa questo... davvero che tornerai a parlarci sia dei vari Woodstock della Val di Chiana. Te non mi inviterai più? No, lo farò, non mai ci sarà la Sara. Benissimo, tutta bene. Questa serata è servita per garantirci un ulteriore invito. Ciao. Grazie ancora. Grazie. 1976. Ciao, grazie. Grazie Giorgio, grazie. È sempre un piacere ricordare il Lumacos. Grazie a te, grazie a te. Appuntamento a giovedì prossimo con Piazzalta, da domani il podcast sulla nostra pagina Facebook, e un saluto a tutti voi simpatici ascoltatori di Piazzalta. A giovedì prossimo. Ciao, simpatici amici. Avete ascoltato Piazzalta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino, ai video Paolo e alla parte tecnica Simone. One.